si può fare. Cronache da un paese migliore. Sì! Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati, 800 24 00 24 anche oggi per intervenire in diretta, 349 238 6666 se volete scriverci, siamo anche su Facebook, veniteci a cercare, cliccate su mi piace, insomma diventiamo sempre di più, così verrete aggiornati di volta in volta anche sulle varie iniziative, come per esempio quella del concorso. Il concorso si può fare per celebrare questi primi 12 mesi di programma, lo sapete, oggi procederemo alla premiazione della quarta ed ultima categoria. Iniziative, piccole idee, grande entusiasmo, abbiamo premiato le imprese, le istituzioni, le persone, adesso siamo alle iniziative, insomma alle associazioni, vedremo qual è la storia più bella che avete votato sul sito di Radio 24, www.radio24.it. Allora, voi ascoltatori che avete votato, anche oggi potete vincere un soggiorno sostenibile offerto dagli amici di EcoTube. Come? Caricate sul vostro col cellulare l'SMS 349-238-6666, la mail con la quale vi siete registrati sul sito. Il testo dell'SMS è soltanto la mail che avete utilizzato, e quando ci sarà il segnale convenzionale, che anche questa volta non abbiamo caricato in scaletta, Fabio, facciamo sempre la solita scenetta, eccolo, però ce l'abbiamo in realtà, pronto. Quando risentirete verso le 12.30 questo segnale convenzionale, l'applauso col quale accoglieremo il vincitore della categoria, ecco, voi mandate il vostro SMS perché i più veloci vincono il soggiorno sostenibile anche oggi. Allora, iniziamo intanto con qualche notizia. Prima di tutto si può fare il tunnel di Monza, è clamorosa, no, questa cosa qua, ci è voluto, ha detto il presidente dell'ANAS Ciucci, un'opera difficile come la Salerno-Reggio Calabria. Meno di 2 chilometri di tunnel, sembra incredibile, scusate la tosse, ma il fatto incredibile è che dopo un'ora che l'avevano aperto hanno dovuto richiuderlo praticamente perché c'era coda, perché c'è un semaforo, qualcuno mi ha spiegato, poco dopo il tunnel che insomma, bloccava la coda, gente intrappolata dentro. Allora vi chiediamo 800 24 00 24, chiamateci amici che lo avete utilizzato e raccontateci un po' insomma, se si può fare o no. Con questa storia del tunnel non si capisce, poi ogni volta che si fa un'opera, una grande opera, insomma ci si riesce ogni tanto per fortuna, però sembra sempre che siamo in ritardo, cose pensate magari 20 anni fa che poi arrivano a compimento dopo e sono già vecchie, ma insomma forse mi sbaglio io, poi nel resto non c'è scelta, le cose bisogna farle. 800 24 00 24, quest'altra notizia qua riguarda invece gli amici di Bologna, beati voi perché siete la città più passionale d'Italia, insomma ogni anno credo la nota marca di anticoncezione, di preservativi, la Durex, diciamo, insomma, fa questo concorso. In 3 mesi la spesa per preservativi e per giocattoli sessuali, insomma, a Bologna ha superato tutte le altre città italiane, quindi vuol dire che insomma beati voi, ecco, allora, chiamateci, raccontateci qual è il segreto di questa felice felicità nella passione, e poi insomma, visto che Bologna diventa il benchmark nel campo della passione, quante volte alla settimana ce lo potete dire? Voglio vedere se qualcuno ha il coraggio oggi di chiamarci da Bologna per dirci: a Bologna lo facciamo tot volte alla settimana, così cioè, ci adeguiamo, no? Anche noi del resto d'Italia. 800 24 00 24. Adesso andiamo ad iniziare con una storia sicuramente un po' meno allegra. Non capisco neanche se siete, se sono stanco, se ho fame, striscia la menzogna sotto banco, scordo il matrimonio coi confetti, gli affetti, le mie relazioni le ho schiacciate come insetti, da domani smetto, ma da dove cominci? Se pago la bolletta in posta e trovo i gratta e vinci, compro il cellulare con la scheda prepagata, poi trovo il poker come applicazione preinstallata, lo stato alla sua fetta, aspetta, non ha fretta per la macchina da guerra cosiddetta macchinetta. Il side, no slot, no slot. E questa è la canzone realizzata da un gruppo di giovani di Pavia, No Slot, è chiaro il testo, no? Anche noi insomma da questi microfoni stiamo cercando di capire un po' che succede, perché c'è un, lo sappiamo tutti, un dilagare delle macchinette e molti comuni, molte regioni stanno cercando di metterci una toppa, è una vera e propria piaga sociale, perché qual è il problema? È che c'è gente che davvero non sa resistere, si chiude là dentro e dilapida interi patrimoni, no? E questo naturalmente non va bene. L'ultimo allarme lo lancia l'associazione Amici e Sostenitori della Polizia Stradale, perché che succede a queste persone che giocano in modo compulsivo se le slot machine si trovano anche negli autogrill lungo le autostrade, poi uno si rimette in macchina, gli psicologi parlano di stati di allucinazione, che succede? E allora noi abbiamo convocato Giordano Biserni, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Presidente dell'associazione ASAPS, voi avete fatto questo, avete lanciato questo allarme. Come mai c'è un aumento anche delle slot negli autogrill, Giordano? Diciamo che intanto cominciano a essere diffuse anche negli autogrill, è un inizio. Sappiamo quanto siano diffuse queste sale giochi nelle aree urbane con battaglie e controbattaglie perché sono troppo vicino alle scuole, troppo vicino alle chiese. Ora le vediamo sbucare anche in alcune aree autostradali, per fortuna solo in alcune per ora. Peraltro la società autostrade sta filtrando questa condizione attraverso gare di affidamento che prevedono un punteggio più alto a chi rinuncia, però la normativa permette questa condizione. Noi non siamo affatto contenti, consideriamo questo impianto di slot machine nelle aree di servizio come l'ultimo nemico pubblico per la sicurezza stradale, non ce n'è affatto bisogno, perché voi immaginate oggi e domani camionisti fermi in un'area di servizio per il blocco ovviamente sì. Festivo, che poi per passare il tempo cominciano un po' per scherzo, un po' perché hanno una loro così tendenza al gioco, cominciano a giocare e cominciano a creare quindi condizioni di depauperamento di somme di denaro. Questo non vale solo per il... Insomma, l'abbiamo detto in mille modi, queste slot house, slot machine dovrebbero stare lontane dai luoghi sensibili, che sono tanti. È giusto che sia così, non è un'ipocrisia, è sempre stato così. I casinò stavano infatti non a caso in luoghi particolari, insomma uno deve fare uno sforzo, ci deve andare, non se li deve trovare sotto il naso da tutte le parti. Questo è un po' il concetto, cioè voi dite l'autostrada deve essere inserito in questi luoghi sensibili in qualche modo. Sì, noi la consideriamo una zona assolutamente protetta, perché le conseguenze quali sono poi? Che quando uno poi si gioca i soldini, a parte il fatto che vengono segnalati proprio all'Associazione Amici di Polizia Stradale dai colleghi di persone che hanno perso troppo e non hanno i soldi per pagare il casello, per esempio, oppure per pagare la sanzione, questo sarebbe la meno, ma soprattutto non hanno soldi addirittura anche per la benzina. Questa è una condizione veramente di rischio. Poi mi domando una cosa molto semplice. Abbiamo fatto battaglie antiche per vietare la somministrazione degli alcolici nelle ore notturne, nelle aree di servizio, poi creiamo queste condizioni che creano veramente, secondo gli esperti, certamente più esperti di noi, una sorta di ebbrezza da gioco che ha delle conseguenze che non sono ben conosciute alla guida, ma troppi incidenti che vengono poi catalogati, archiviati come causa sconosciuta o da approfondire, possono avere come conseguenza proprio una situazione di distrazione mentale o di innervosimento, sì, che è tutto da certificare. Non ne abbiamo assolutamente bisogno. Senta Giordano, ci aveva provato il governo tecnico a metterci una toppa con insomma il decreto Balduzzi eccetera. Adesso a livello diciamo di normativa come siamo messi secondo lei, secondo te? Siamo messi, mi pare la normativa preveda distanze di 300 metri da alcune situazioni sensibili, quali possono essere le scuole, gli ospedali, eccetera. Per quanto riguarda le aree autostradali non mi pare siano previste. So che parecchie regioni, la mia regione, io parlo dell'Emilia Romagna, che si sta attivando su questo versante con una propria proposta di legge regionale che prevede di ristabilire condizioni di distanza adeguate e filtri molto più sensibili su questo aspetto. Vivo in una realtà che vede il proliferare di queste sale giochi, c'è un tentativo di mettere fuori dall'area più strettamente urbana, fuori dalle zone sensibili, perché creano veramente, come devo dire, condizioni di rischio, perché calamitano certamente personaggi non sempre raccomandabili, soprattutto nelle vicinanze di istituti, di scuole, di ospedali, di parrocchie, eccetera. Noi, come Associazione Amici Polizia Stradale, ovviamente guardiamo il versante della strada e siamo certi che ci sia un riverbero negativo anche per quella che è la sicurezza stradale. Io quello che non capisco è questo, cioè come fa uno Stato a permettere di dilagare di questa situazione anche incassando somme modeste, e poi per questo giochetto va a spendere come biscazziere 5-6 miliardi di euro all'anno in spese sanitarie per sanare condizioni di questo tipo. È un autogol assolutamente assurdo. Abbiamo già le strade enormemente bucate, piene di crateri eccetera, allora andiamo a bucarci anche le tasche in condizioni di questo tipo, veramente che sono assolutamente, secondo noi, criticate. E tra l'altro a chi ci scrive al 349-238-6666 che dobbiamo lasciare le persone libere di dilapidare i loro patrimoni come vogliono alle loro macchinette, sicuramente ognuno è libero di fare quello che vuole, però certo non può far piacere a nessuno che ci sia qualcuno che sputtana tutti questi soldi, ci sono casi clamorosi alle macchinette. B, qua stiamo parlando di un'altra cosa, Giordano Biserni dell'ASAP ci sta mettendo in guardia, guardate che in autostrada se veramente si creano questa situazione di ipnotismo, di condizioni psicologiche, no? Di come vengono definite dagli esperti, insomma, di vengono definite gioco d'azzardo patologico. GAP, no? Quindi ci sono condizioni estreme. Ecco. Se questa categoria 4 volte più superiore ai tentativi di suicidio rispetto alle altre, se ha condizioni così di fragilità psichica, credo che qualche riflesso sulla poi mettersi al volante a 140 all'ora, capite bene che non va bene. E insomma, mettiamola da un'altra parte, non per favore nelle autostrade. Noi il nostro telegramma al Parlamento, perché il governo non ce l'abbiamo ancora, Giordano, dobbiamo aspettare, che ci vuoi fare? L'abbiamo mandato, speriamo che qualcuno lo senta e noi ci risentiremo sicuramente per rilanciarla questa campagna. Intanto grazie. Quando volete, sicuramente, anzi ringrazio voi che ci avete dato megafono per questa battaglia che riteniamo molto giusta. Noi ci proviamo, Giordano Biserni, presidente dell'ASAPS. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Insomma, primo tema di oggi, l'allarme delle slot machine nelle autostrade. Avete sentito qual è la preoccupazione espressa dagli amici della Polizia Stradale? Ne avete incontrate negli autogrill lungo le autostrade? Se sì, dove? Chiamateci 800 24 00 24. E poi rinnovo l'appello agli amici di Bologna. Chiamateci, voglio vedere se qualcuno ha il coraggio di dirci a Bologna quante volte si fa sesso alla settimana, visto che insomma siete il benchmark della passione in Italia, perché siete quelli più passionale, almeno secondo quello che dice la Durex questa settimana. E poi insomma anche il tunnel di Monza, se qualcuno si è imbattuto nelle prime ore in cui è stato aperto, e se quest'opera come viene giudicata insomma dai fruitori, dai pendolari. 800 24 00 24. Adesso, tra poco, il prossimo ospite. Because 2 times 3 is 6, 3 times 6 is 18, and the 18th letter in the alphabet is We got 3 R's we're gonna talk about today. We gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Where's that 3? It's a magic number. Oh, intanto vi voglio leggere alcune notizie, perché oggi dovrebbe essere approvato il famoso decreto per sbloccare insomma i soldi per i crediti che le aziende hanno nei confronti dello Stato, una cosa di cui si parla da tempo, per evitare cose così, cose clamorose, tipo a Sesto Fiorentino il comune minaccia di fare causa allo Stato che non gli paga l'affitto della sede dei della caserma dei carabinieri. Poi a Giulianova in Abruzzo l'autrice di una scultura che sta sul lungomare di Giulianova ha tolto la scultura dopo 3 anni perché il comune non l'aveva pagata. Allora lei cosa ha fatto? Se l'è ripresa e se l'è portata a casa. Mi avete fatto fare un lavoro, non mi avete pagato, allora io me la riporto a casa. In realtà poi si è scoperto che era un pesce d'aprile, era una foto fatta con Photoshop, diffusa dai giornali, la scultura è ancora lì, però era un modo per protestare contro questa cosa. Un'altra notizia viene da Roma, e anche questa è clamorosa: il comune non riesce a pagare i buoni pasto per i nonni vigili, quelli che stanno sulla strada a far attraversare le strade ai bambini all'uscita dalla scuola nel 12° municipio. Allora loro hanno detto: se non ci date questi 4,50 euro al giorno, noi insomma non ci andiamo più a fare il nostro servizio. Queste sono alcune notizie, però c'è chi viene incontro ai comuni. Per non rinunciare alla raccolta differenziata, c'è chi dà una mano a costi zero, ed è, per l'esattezza, Omar Pivi, ideatore di fareraccolta.it. Omar, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Un grazie, sistema che viene presentato così, un sistema innovativo, il primo sistema di raccolta differenziata non convenzionale in Italia. In pratica voi avete creato una cosa per cui i comuni che vogliono spingere sulla raccolta differenziata, per esempio sulla plastica, possono adottare le vostre macchinette mangia plastica e non gli costa praticamente niente. È così? Sì, creiamo la condizione grazie al modello imprenditoriale FARE, che è l'acronimo di Futuro, Ambiente, Responsabilità ed Etica, quindi lo stiamo applicando dalla finanza alla raccolta differenziata, e creiamo la condizione di insieme dare l'opportunità alle attività economiche del territorio di avere una forma di marketing non convenzionale da utilizzare per farsi conoscere e per dare l'opportunità agli utenti di consumare all'interno delle loro attività. Perché voi avete creato un sistema a punti, no? Spieghiamolo il meccanismo. Perché il meccanismo è molto semplice: l'utente si utilizza il sistema fare raccolta, ogni pezzo vale 10 centesimi, quando ha finito di fare la propria, il proprio conferimento, ritira i buoni sconto e li utilizza nelle attività economiche che hanno aderito al progetto. Ecco, magari per dirlo, dove sono già operative queste macchinette con questo sistema che avete ideato voi? Ci sono già alcune città, no? Sì, siamo partiti il 23 giugno da Riccione, sì, poi Misano, Ferrara, inauguriamo la prossima settimana a Resana in provincia di Treviso e stiamo applicando il progetto in 23 città diverse in Italia, praticamente ci manca soltanto la Liguria, se no copriamo tutte le regioni. Praticamente io vado con la bottiglia di plastica, funziona solo per le bottiglie di plastica al momento? E la prima macchina che installiamo, il primo sistema, utilizziamo un sistema per la raccolta del PET perché è il materiale, sì, di più largo consumo e a noi nell'immediato ci aiuta insomma a realizzare poi i numeri. No? Il polietilene, no? Quello con cui si fanno le bottiglie di plastica, sì, credo. Sì, sì. Allora, con queste... io vado, butto la bottiglia e mi vengono dati dei punti, degli accrediti, dei buoni sconto che io posso andare a spendere nei negozi convenzionati che troverò scritti sulla macchinetta probabilmente. L'utente viene a sapere le attività economiche, sì, sia sulla macchina che attraverso il materiale cartaceo, abbiamo preparato... Cioè, sì, una po' di pubblicità. A quel punto i negozi che sono convenzionati ricevono questa forma appunto di pubblicità, di marketing, come dite voi, non convenzionale, e ecco che il, sì, gioco è fatto. Praticamente sono loro a finanziare la spesa della macchinetta che poi aiuterà il comune, dove si trova la macchina, ad abbattere insomma tutte le varie quote di raccolta differenziata. Il nostro obiettivo è riuscire in questo caso specifico a essere il modello di ammortamento di una tecnologia che sarebbe da subito un enorme risparmio sulla raccolta differenziata, perché la tecnologia che andiamo ad ammortizzare a livello di costo è in grado di dare un materiale assolutamente pulito, selezionato, è in grado di avvisare per esempio quando è piena, quindi se i 60.000 cassonetti della provincia di Rimini avvisassero il gestore di riferimento quando sono pieni, loro risparmierebbero domani mattina il 60% dei costi logistici. Il fatto è che questa tecnologia non è nuova, esiste, certo, da molto tempo, ma rappresenta nel nostro paese esclusivamente un costo. Il problema è che mi sembra, da profano insomma, Omar, di questa materia, che il sistema proprio degli incentivi sia poco preso sul serio insomma dalle nostre dagli enti pubblici, dalle istituzioni, forse anche dai privati. Cioè il tentativo che state facendo voi mi sembra non dico il primo perché ce ne sono altri, tra l'altro questa cosa l'ha fatta in collaborazione con la Eurven, che è la ditta, no, che produce queste macchinette. Sì, sì. Le tecnologie che stiamo utilizzando sono di Eurven. Esatto. E quindi, insomma, spingere su questo concetto degli incentivi, perché la gente ha bisogno di essere incentivata a fare comportamenti virtuosi. Insomma, mi pare che ci stiate provando bene. Quindi nel giro di quanto tempo avremo 23 città, hai detto? Stiamo lavorando in 23 città. Le più veloci saranno sicuramente Parma, Rovigo, Foggia, San Severo, Assisi, Aprilia, Latina, Roma, Bergamo, Alessandria e Torino. Dobbiamo dire grazie anche agli amministratori per questo, cioè avete fatto degli accordi diciamo con i comuni. Il nostro approccio quando arriviamo su un territorio è molto semplice, avvisiamo l'amministrazione che arrivate, stiamo partendo col progetto, perché mettiamo sempre le macchine in suolo privato d'uso pubblico. Okay. Loro ci chiedono immediatamente quanto gli costa e chi gestisce il rifiuto. Noi gli spieghiamo che per loro è a costo zero e il rifiuto lo facciamo gestire alla multi-utility di riferimento, regalandogli il materiale che andiamo a raccogliere. Quindi creiamo subito le condizioni di condivisione. Tant'è vero che in tantissimi comuni lo stiamo applicando, per esempio, alla colonnina dell'acqua pubblica, ecco, piuttosto che alle colonnine di ricarica dei mezzi elettrici. Qui insomma si crea anche un po' un punto di questo tipo, sì, nelle città. Va bene, grazie, sì, per tutto quello che state facendo. Un bel lavoro, complimenti, in bocca, grazie, al lupo, a presto. Omar Pivi, ideatore di fareraccolta.it, c'è anche il sito, andate, vedete se siete interessati e capite. It, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, pick it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Technologic, technologic, technologic, technologic. Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, mail, upgrade it. Eccoci qua, insomma, oggi una scelta musicale un po' forte, Technologic dei Daft Punk. Perché? Perché vogliamo parlare con una delle, viene definita, insomma, star dell'high tech internazionale. Parliamo di Massimo Banzi. Buongiorno Massimo. Buongiorno. Uno che ce l'ha fatta, cofondatore di Arduino, e non addetti ai lavori diranno, vabbè, e quindi adesso che cos'è intanto Arduino? Una cosa che c'è da qualche anno, però è una cosa importante, Massimo. Arduino in realtà è uno strumento che permette a persone che, sì, non conoscono l'elettronica, che non sanno programmare, di realizzare degli oggetti interattivi. È un piccolo computer programmabile facilmente, che costa abbastanza poco e che si rivolge a chi non è un ingegnere, non è un programmatore, ma vuole realizzare degli oggetti o vuole costruire qualcosa di nuovo. Ecco, la persona che state ascoltando, che ha inventato questa cosa qua, oggi, stamattina, e lo abbiamo sentito anche per questo, per questa coincidenza, torna nella sua scuola, Liti Enrico Fermi di Desio, è sì, così? Esatto, sì, per parlare siamo live dal Liti Desio. Per parlare con i ragazzi di questa scuola, insomma, per loro tu sarai un mito, insomma, per raccontargli che cosa. Il nostro programma si chiama Si può fare, tu ce l'hai fatta. Ma sì, poi la definizione di avercela fatta è sempre, sono molte, però diciamo che in qualche maniera sono sicuro che io sono riuscito a fare quello che mi piace fare, che questo è già, secondo me, un risultato. Per cui lavoro sul mio progetto Arduino e giro per il mondo, ed è bello però tornare qui all'ITIS per incontrare gli studenti che, insomma, stanno facendo lo stesso percorso che ho fatto io, anche perché secondo me l'ITIS è un tipo di scuola che in questo momento è molto importante. Abbiamo sentito dire, insomma, anche dai politici, alcuni, non tutti, che le scuole tecniche sono sottovalutate, invece i ragazzi devono essere invitati a seguire, a fare questa scuola. Il tuo caso è clamoroso da questo punto di vista, perché dimostra che è vero tutto questo, insomma. Che cosa racconti ai ragazzi, cosa hai raccontato poche ore fa ai ragazzi con cui hai parlato? Insomma, bisogna avere fiducia, no? Sicuramente, però cosa c'è che bisogna fare, per esempio, in Italia che ancora non si fa per favorire gli innovatori come te, che sei dovuto andare all'estero però per realizzare tutto questo? Ma sì, secondo me quello che ho raccontato ai ragazzi è che in realtà che ce la possono fare da soli, perché in realtà ci sono tutte le informazioni necessarie, tutte le tecnologie disponibili sono lì, aperte su internet, utilizzabili da tutti, per cui che loro stessi possono creare innovazione, possono creare scenari nuovi. Gli ho fatto vedere degli esempi di gente che in giro per il mondo lo sta facendo grazie a queste tecnologie, per cui in qualche maniera gli ho dato un modello di mondo in cui non c'è lo Stato che dall'alto scende e dice facciamo l'innovazione, ma un modello di gente che dal basso si mette assieme e costruisce delle cose, che inventa dei nuovi concetti, nuovi prodotti, che cambia il mondo facendo delle cose. Ma secondo te loro ti prendono sul serio? No, nel senso, ovviamente sì, ma credono a questa tua diciamo iniezione di fiducia, oppure c'è un po' di scetticismo, perché insomma i telegiornali, la televisione, la stampa sono continuamente riempiti di pagine e pagine in cui si dice che invece il contrario, no? Che le cose non vanno, che non ce la facciamo, che i giovani sono fuori da tutto, eccetera. Beh, certo, io mi immagino che un giovane che adesso ha 18 anni in questa parte d'Italia sicuramente si è confrontato con dei problemi più difficili di quelli che avevo io quando ero alla loro età, dove in realtà c'era molta più possibilità in qualche maniera di trovare dei lavori. Però in qualche maniera secondo me gli ho detto di trovarsi degli esempi, di trovarsi dei modelli a cui di riferimento da cercare in qualche maniera di emulare o di capire che cosa hanno fatto queste persone, che piace anche a loro. E perché in qualche maniera è vero, io ho detto proprio a loro, gli esempi che avete voi in televisione in questo momento sono di gente che non vi dà in qualche maniera dei comportamenti positivi. Insomma, invece noi ci proviamo a creare, esatto, questa comunanza di intenti tra chi ce l'ha fatta e, insomma, i ragazzi, che in questo caso rappresentano il pubblico più sensibile a queste tematiche, no? Che aspirano, sperano di farcela. Massimo, in bocca al lupo per te, per tutto. Farai degli altri incontri del genere in Italia oltre a quello di oggi? Ma purtroppo, secondo me, il mio tempo è limitato, perché io sono sempre all'estero in viaggio e vivo all'estero. Oggi sono venuto perché mi piaceva questa idea di rivedere un po' la mia scuola vent'anni dopo, però... Vabbè, dai, non ti dimenticare però di noi, insomma, torna qualche volta. No. Va bene, grazie Massimo Banzi. Ma io poi sono contenta così, quindi dipende. Ma anche... sì, è un po' come quello che giocano il gratta e vinci, quelle cose di 5 euro. Giocano gratta e vinci, cifre sì, anche superiori alle slot. Comunque io dicevo che inizia nei luoghi che abbiamo sotto casa, non nelle sale giochi. Sì, nei bar. Mi spiego, nei bar, perché nelle sale giochi, ad esempio a Piacenza, Castel San Giovanni, ce n'è una per 15.000 abitanti, massimo due. Mentre nei bar li trovano anche i ragazzini, vedo dei ragazzini 14. Sì, devo dire però che c'è un po' una differenza, perché nel bar c'è ancora il controllo, diciamo, si può dire questa espressione, controllo sociale, il barista, gente che va e viene, quindi forse chi gioca si sente anche giustamente osservato, parte di un tutto. Se vai nel slot house, sei chiuso, luci basse, puoi stare lì anche mezza giornata e non ti dice niente nessuno. Questo, almeno per il mio punto di vista, è un po' diverso. Comunque, Anna, grazie. Intanto ci ha detto che l'ha vista lungo l'autostrada, nella zona di Aosta. Allora è vero che si stanno estendendo. Sentiamo anche Attilio che ci chiama da Vicenza. Buongiorno. Buongiorno. Niente, io confermo pienamente quello che ha detto la signora. Sì. Le spiego anche il perché. Io per lavoro sono presso un'agenzia di sicurezza e faccio sicurezza presso, diciamo, chiamiamo una multinazionale di sala giochi. Sì. Allora, noi abbiamo i turni notturni. Facciamo magari dalle 9 alle 6 del mattino, perché ci sono addirittura delle sale giochi aperte 24 ore su 24. Ragazzi, ma vi rendete conto? Cioè, l'unico esercizio commerciale aperto tutta la notte. Aperto 24 ore su 24. A me sembra una follia, sì, prego. Ecco, allora, tornando all'argomento, ad esempio, dei minorenni, sì, noi siamo autorizzati, assieme a, diciamo, la, sì, responsabile della sala, a chiedere i documenti, quindi da noi... Diciamo che minorenni non entrano. Bravo, mi raccomando, mai. Controllate sempre, anche nel dubbio. Sempre, sempre. Ecco, come diceva poc'anzi la signora, il problema sono i bar. Sì. Cioè, io sarei concorde nel togliere tutte le macchinette da bar, autostrade, io ne ho viste addirittura in, cioè, lei dice tabaccherie. Mettiamole tutte nelle slot house, in queste, esatto, sale giochi. Vabbè, lei, esatto, ci lavora, forse c'è anche un giusto conflitto di interessi, perché lei, giustamente, per lei è anche il suo lavoro. Non lo so, la questione è sicuramente di limitarne un po' l'uso e anche di limitare forse le sale giochi, perché stanno nascendo come funghi da tutte le parti e forse devono rispettare questi famosi benedetti limiti di distanza dai luoghi sensibili. Anche qua ci sarebbe tanto da dire. Comunque, grazie Attilio. Facciamo veloce anche Roberta, poi andiamo al segnale convenzionale tra poco, quindi mi raccomando, premiazione. Roberta dalla provincia di Monza. Roberta? Sì, mi senti? Sì, ti sentiamo, Roberta. Niente, io volevo soltanto dire che giovedì ho provato il tunnel di Monza e anche stamattina. Sì? E in effetti è un'altra vita. Finalmente, tutto a posto. Ma è vero che c'è un semaforo poco dopo che crea un rischio di gente intrappolata nel tunnel se il semaforo è rosso? Mi hanno detto così. Sì, sì, c'è, in effetti c'è, però vabbè, io non ho avuto nessun problema. Non ho avuto problemi, insomma, in quell'orario non c'erano problemi. Magari no. So che stanno valutando se spostare questo semaforo, ci potevano pensare prima. Comunque, il giorno stesso dell'inaugurazione so che ci sono state un po' di polemiche. Grazie intanto Roberta per questa testimonianza positiva. Adesso andiamo alla premiazione della categoria del concorso che si può fare, iniziative, piccole idee, grande entusiasmo, e tra poco segnale convenzionale. Allora, via con gli SMS, via, potete partire, ci vuole sempre un po', SMS con la mail di registrazione sul sito e poi lanciamo anche la canzone che introduce l'ospite della premiazione. Mi raccomando, perché è l'ultima premiazione, potete vincere la vacanza sostenibile di EcoTube. Vedo che c'è un po' di ritardo, eccoli, cominciano ad arrivare gli SMS con le mail, perfetto, continuate così, i più veloci vincono. Le prime comunicazioni sui vincitori delle scorse settimane sono già arrivate, quindi tutto bene, cominciamo. E allora, salutiamo, le diamo il benvenuto, Isabella Inti, presidente dell'associazione temporiuso.net, buongiorno. Buongiorno a voi. Prima di tutto il sito è temporiuso.org, però l'associazione si chiama temporiuso.net. Sì, per confondere sempre un po' le idee. Ecco, se no sarebbe troppo facile. Vincitrice, non Isabella in quanto tale, ma l'iniziativa della categoria Iniziative, piccole idee, grande entusiasmo del concorso Si può fare, è stata la più votata. Voi che cosa fate? Praticamente, adesso ce lo racconterà, cercate di ridare nuova vita all'edilizia abbandonata, a quei capannoni che vediamo nelle periferie, a quei palazzi del centro, del comune, dei privati che non servono più a niente. Voi fate di tutto perché tornino a vivere. Questa cosa è piaciuta tanto agli ascoltatori che vi hanno scelto come l'iniziativa più bella tra quelle che abbiamo presentato l'anno scorso. Isabella, a te di spiegare come nasce la vostra associazione e che cosa fate. Sì, Temporiuso.net nasce dall'esperienza passata e dalla voglia di provare a portare anche in Italia, in particolare nella nostra città, le pratiche e le politiche di riuso temporaneo di spazi in abbandono, che già da una decina, quindicina d'anni sono attivate anche ad Amsterdam, Berlino, Bruxelles, ossia quando vi sono carenze di risorse economiche per riqualificare, bonificare i suoli, quant'altro, si provano a mappare gli spazi in abbandono di diverse tipologie, dalla grande fabbrica, il capannone, come dicevi tu, fino al piccolo negozio, per fare degli esempi, e si provano a studiare quali popolazioni potrebbero fare ingresso per dei cicli di riuso legati alle loro stili di vita, per cui l'artista magari per una settimana, un mese per una mostra, lo studente per un ciclo di studi di 3 anni come studentato, l'associazione culturale ancora dai 3 ai 5 anni e gli artigiani che si muovono soprattutto intorno ai 5 anni perché hanno anche grandi macchinari e infrastrutture da portare. Io so che voi tra l'altro tra qualche giorno lancerete un appuntamento a Milano, ma rivolto a tutti quelli che lavorano, operano, sperano di fare cose in questo settore un po' particolare ma fondamentale del riuso dell'edilizia, perché sappiamo che in Italia non si dovrebbe più costruire nulla perché siamo invasi dal cemento, invece ci sono tantissimi spazi che possono essere recuperati. Un'iniziativa, dicevamo, nazionale, adesso ci dirai dove e quando, così lanciamo anche questo appuntamento. Restando però a Milano, dove voi state operando, ci eravamo trovati qualche mese fa quando avevamo lanciato la vostra iniziativa, così facciamo il punto, con 9 progetti, le 9 zone di Milano presentati anche al comune per cercare appunto di portare avanti questa cosa qua. E mi dicevi, Isabella, che almeno su 3 di questi progetti ci siamo a un livello di concretezza. Quali sono questi progetti? Sì, esatto. Allora, dopo settembre, quando abbiamo fatto le giornate di riuso temporaneo, che hanno visto sia dei seminari internazionali per mostrare come si fa in altri contesti, e la progettazione con 65 studenti e associazioni di 9 spazi in abbandono, 1 per zona, abbiamo, siamo tornati con i progetti, con le idee progettuali nei diversi consigli di zona e nei diversi assessorati, e 3 di questi stanno proseguendo, in particolare il mercato Montegani è uno spazio come altri 26 mercati di Milano in parte sottoutilizzato, sono strutture degli anni 40 e 50 prive anche ad esempio di riscaldamento, per cui condizioni anche difficili dove lavorare, che hanno sofferto molto anche della grande distribuzione, quindi la concorrenza legata a spazi commerciali dove riscaldamento, musica, un'immagine coordinata la fanno da padrone, per cui abbiamo inventato insieme anche ad altre realtà locali, questa associazione di artisti si chiama Or Commerce, dei pranzi pubblici, ossia stiamo cercando di introdurre, come già aveva peraltro previsto l'assessorato al commercio del Comune di Milano, la possibilità, come si può fare ad esempio a Barcellona, a modello boccheria, di poter ad esempio pranzare con i prodotti tipici venduti all'interno del mercato. Vedete quante cose belle si possono fare con queste iniziative, questa è bellissima. E poi? Per cui ad esempio questi pranzi sono una volta al mese, è venuto molto bene quello del 20 marzo, ne farà un altro il prossimo 17 aprile. Poi un grande progetto, forse il più grosso, è quello di riattivare come ostello, studentato, spazio per le associazioni e spazi di co-working alcune delle palazzine di Viale Molise, parte di quell'enorme patrimonio che appunto è l'Orto Mercato. Le palazzine sono su strada e una la conoscete probabilmente, la palazzina quella occupata da Macao, ma le altre sono invece ancora vuote. Il famoso Macao che tanto fece discorso discutere anche, no? Poi sì, nel dialogo che ci fu e in parte anche non ci fu con l'amministrazione, in comprensione eccetera. Voi su questo terreno ci siete, operate nel rispetto, facendo convenzioni, insomma, di tutte le regole, non occupate nulla, però cercate di ridare vita. Questi sono alcuni progetti di Milano. Adesso facciamo una pausa per il traffico, poi Isabella ci lanci questo appuntamento nazionale tra qualche giorno a Milano e poi ci salutiamo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Di nuovo in compagnia di Isabella Inti, Tempo Riuso Net, per parlare delle loro iniziative, come abbiamo già abbondantemente detto, di ridare vita all'edilizia abbandonata a Milano, ma non solo, perché avete progetti da tutte le parti. E tra l'altro tra qualche giorno appuntamento nazionale a Milano. Di che si tratta? Allora, l'11 aprile, dalle 5 del pomeriggio alle 7 di sera, ci troveremo all'interno della piscina estiva Argelati, che è in via Segantini 6 a Milano. Attualmente un'associazione milanese si chiama Esterni, sta facendo un campeggio per i designer e gli architetti che stanno arrivando per il salone mobile. Noi su quella piscina, con la pubblica amministrazione, prevediamo anche per il futuro inverno invece anche uno skate park, quando non è piscina d'inverno può diventare uno skate park, e quindi cogliamo l'occasione invece anche per il Salone del Mobile, dove in realtà nazionali passano appunto da Milano, per lanciare un manifesto per il riuso, che condivida delle regole e anche la possibilità di scambiare informazioni e progettualità. La più importante è quella appunto di dare trasparenza, visibilità nelle singole città dove sono collocati questi luoghi abbandonati, ma anche quella di convincere la pubblica amministrazione e i privati a ritrovarsi almeno una volta all'anno intorno a un tavolo e capire con molta semplicità e pragmatismo quali di questi luoghi potrebbero essere riattivati grazie alle energie di associazioni culturali, di artisti e di imprenditoria sociale. Per cui ci troveremo con realtà che arrivano da Firenze, da Bologna, da Forlì, da Palermo, da Roma, un po' da tutta Italia, alla piscina Argelati l'11 dicembre dalle 5 in avanti. Va bene, grazie mille Isabella, insomma abbiamo rinverdito e rilanciato anche questo appuntamento. Questa era l'iniziativa la più votata dagli ascoltatori di Radio 24 sul sito www.radio24.it, il concorso che abbiamo proposto, insomma, per premiare le storie più belle di questo primo anno di programma. Ci risentiremo Isabella, perché di cose ne fate e noi vogliamo sempre essere lì con voi. A presto. Grazie Radio 24. E voglio ricordare anche il secondo classificato nella categoria iniziative piccole idee, grande entusiasmo, che era l'iniziativa promossa dalla sovrintendenza alle belle arti di Roma con il comune e il carcere di Re Bibbia, se non ricordo male. Detenuti ripuliscono i fori imperiali, insomma lavori socialmente utili, però belli in questo caso, perché prendevano a cuore proprio anche uno dei siti, insomma, più importanti dal punto di vista archeologico. E poi l'altra iniziativa, terza classificata da Milano, la rete dei ristoranti del Buono che Avanza, dove non si butta via nulla, tirando la schiscetta per portare a casa gli avanzi, e così appunto si sensibilizza contro lo spreco di cibo. Questa è l'iniziativa terza classificata, era giusto dirlo. La prima, Tempo Riuso, l'avete appena sentita nell'intervista di Isabella Inti. Abbiamo parlato di siti archeologici, adesso sentite questa bella storia che viene da Napoli. With my own two hands, and I can clean up the earth, Lord, with my own two hands, and I can reach out to you, oh, with my own two hands, with my own two hands. Con le loro mani alcuni dipendenti della cooperativa 25 giugno di Napoli sono stati visti, anzi si sono segnalati per avere, anche oltre l'orario di lavoro, contribuito a ripulire il sito archeologico di Posillipo, la grotta di Seiano. Insomma, ci tengono a queste rovine, ci tengono al loro posto di lavoro, tanto che, visto che sappiamo che i mezzi sono sempre quelli che sono, anche extra lavoro si dedicano a questo. E allora, insomma, poi qualcuno è andato a verificare e la cosa era vera. Allora noi li abbiamo convocati nella persona di Alberto Pepe. Alberto, buongiorno. Buongiorno. buongiorno a voi. Uno dei dipendenti della cooperativa 25 giugno che appunto fa tutto questo. Voi vi siete segnalati a un giornale locale, insomma un po' alla stampa locale per questa storia, sono venuti a verificare e hanno visto che in effetti voi tutto questo lo fate. Cioè mentre i vostri amici sono al bar a vedere la partita, voi state lì a ripulire la grotta di Seiano. Siete pazzi voi o sono pazzi i vostri amici? No, noi siamo napoletani e i napoletani amiamo il nostro lavoro, amiamo la nostra città e amiamo il nostro popolo che deve venire da noi sempre, anche il fatto che è successa la città della scienza che siamo a due passi da noi, sì. Era un via via che venivano anche da noi, ma molti bambini, mi dispiace molto, e spero che il governo al più presto abbia questo bel sito della grotta della città della scienza. Sì. Io e i miei amici siamo normali, amiamo, ho detto, Napoli è la nostra città. Oltre a fare vigilanza, guardianiglia, nel nostro sito archeologico, sì. Ci dedichiamo anche a questa bella piazza che il famoso sindaco ha dedicato questa piazza tempo fa ad un musicista napoletano. E noi aspetta, diciamo... togliamo un po' di allusioni. Il famoso sindaco e il musicista, sì, napoletano, di chi stiamo parlando? Di De Magistris? Sì, che ha dedicato la piazza a chi? Sì, è stata dedicata questa bella piazza e io ogni mattina, io e i miei amici ci dedichiamo fuori al nostro orario di lavoro a pitturare un po' le panchine, a fare ma un po' la piazza di è dedicata a chi? Al musicista, quello che fa mamma, la mamma che canta mamma, è stata dedicata questa canzone, al musicista napoletano. Mamma, ma sì. Come si chiama sta piazza? Cioè, il nome del musicista ce lo dici, Alberto? Sente, sta scritto vicino alla piazza. Adesso non se lo ricordo. Vabbè. Allora vuol dire che non era così importante. Ma sì. Dici la verità, Alberto, lo fate anche perché avete paura, così insomma, non si sa mai, no? Magari non si, sì, sa mai come va a finire con gli appalti delle cooperative. Sì, magari a noi, e voi vi mettete le mani avanti, lavorate un po' di più. No, noi lo facciamo. Io sono in servizio dei miei amici qua alla grotta di Siano, siamo da 15 anni in servizio e facciamo con amore. Non perché ogni anno a noi ci fanno i finanziamenti, siamo una cooperativa legge 452 convenzionata. Ma con quanti il siete nella cooperativa? Allora la cooperativa è composta da 710 persone che siamo, sì, in tutte le piazze di Napoli, siamo anche nel Decoliamo Napoli che facciamo di pulizia tutta la città. E voi siete in quanti dedicati a quando a siamo alla grotta di Siano? Sono sei persone affiatati, che siamo sempre qua affiatati. Quindi partecipate tutti a questi momenti, sì, anche extra? Tutte le sei persone stanno, adesso stiamo accompagnando i turisti, vedete qua, ne stiamo accompagnando. Qual è la storia della grotta di Seiano? Cosa c'è, cosa si vede? Allora, vi spiego subito, sono 700 metri di lunghezza, che poi passiamo all'archeologia, dove ci sta un parco archeologico e ci sta un teatro romano che ospitava fino a 2000 persone, poi ci sta una veduta che si vede tutta via mare, che si vede la montagna della Gaiola, dove sta la Gaiola, la famosa Gaiola, la Gaiola, la famosa villa della Gaiola. Spiegaci, Alberto, perché noi che non siamo di Napoli, sì, dobbiamo capire, dobbiamo sapere. Sta da vedere, è un bel posto, è meraviglioso, qua abbiamo un afflusso di turisti ogni mese, sono dai 1500 persone a volte che vengono qua. Capito, da noi, anche che abbiamo a due passi la città della scienza qua, che adesso sta chiusa, e spero che apriranno presto, che la mia vita, anche la città della scienza, tutti lo vorrebbero. Senti, Alberto, l'ultima cosa, voi lo stipendio, sì, il comune ve lo paga, visto che c'è questo, sì, problema, sì, sui ritardi, sì, voi siete... noi, a noi ci pagano lo stipendio, Perché poi in realtà a voi vi paga la cooperativa che prende, sì, la parte. Cooperativa, sì. Noi vi dico, lo stipendio mio è da lunedì a venerdì, settimana corta, il sabato non lo facciamo e garantiamo anche il sabato sopra qua. Vabbè, siete straordinari. Alberto, noi dobbiamo fermarci qua, buon lavoro, grazie. La ringrazio a voi. E buon divertimento, perché so che in fondo lo fate anche perché con lo spirito giusto ci si può divertire anche facendo queste cose qua. Io ringrazio Giorgio De Luca per l'assistenza in redazione oggi in diretta, Fabio Cantadoni in regia, Andrea Piana che ha scritto con me il programma, Franco Piantanida in redazione durante la settimana. E a me, Ale Maurizi, chiocciola Ale Maurizi, mi trovate su Twitter e ci risentiamo anche domani in diretta dal Vinitaly. Buona giornata a tutti.